Per lo più sono spesso tentato di dire, insomma, che al mondo non cambia mai alcunché. Ma ogni tanto debbo rendermi conto di mutamenti radicali che, forse senza troppo rumore, inavvertiti, sono avvenuti sotto i miei occhi. Quando ero ragazzino era tutto un florilegio di corna. La gente se le faceva dappertutto ed in qualsiasi occasione. Dico il segno delle corna, fatto con l'indice e il mignolo di una mano. Lo sgarbo o l'insofferenza adirata verso il comportamento altrui induceva a coniugare l'altrui in questione immancabilmente con qualcun altro dal comportamento sessuale non irreprensibile. Lo sa Dio perché il tradito o la tradita in quanto tali, nell'immaginazione di qualche popolo fa, rappresentavano tutti i gradi della viltà, dell'inettitudine e della colpevolezza. Di certo è roba vecchia, perché del gesto delle corna parlano già Giacomino da Verona, Dante Alighieri, il Pulci, l'Aretino. Poi venne il delitto del cacciavite. Non mi ricordo più quando accadde, ma accadde. L'evento è stato più o meno del tipo sorpasso in automobile, corna, risorpasso, frenata brusca, tutti giù per terra, ed una spiegazione fra i contendenti che parve chiara soltanto allorché uno dei due aveva infilato un cacciavite nel cuore dell'altro. Del segno allora si cominciò a tramandare la pericolosità e pian piano sparì ad un certo livello della vita sociale, nei luoghi pubblici, fra estranei, allorquando il rispetto è dovuto di principio, insomma. Rimase nella dimensione goliardica, fra gruppi di amici in vena di scherzi, a scuola, in certi ambienti dove il cameratesco è ancora un atteggiamento dominante e caratteristico. Ne ho trovata traccia freschissima nell'almanacco Panini. Non so se sapete cos'è un almanacco Panini. È il chi è più esauriente in materia di gioco del calcio. Nell'almanacco Panini ogni anno ci trovate tutti i risultati, la storia di ciascun calciatore, le immagini di tutte le squadre dalla Serie A alla Serie C. Beh, è con una certa sorpresa, venata di nostalgici patetismi, che ho scovato nella fotografia della squadra del Modena di quest'anno un giocatore burlone che, alla faccia del sussiego con cui i calciatori guardano di solito a se stessi e dalle proprie immagini, che fa le corna dietro la nuca del compagno accosciato al suo fianco, mi è apparso come un segno d'altri tempi, come il residuo di una cultura in cui il gioco aveva ancora a che fare con un minimo di spontaneità, e non solo, come oggi con l'artificio del denaro. Ecco, questo cornaiolo impenitente dovrebbe venire premiato per quel tanto che ha osato aver riportato per il tempo di un breve gesto clandestino, aver riportato all'indietro le lancette della storia. Dal delitto del cacciavite, comunque, di tempo ne è passato. E tempo è passato evidentemente dalle ultime pratiche sociali relative al gesto. Dico evidentemente perché nella dimensione specificamente sociale del linguaggio, prima che un significante come un gesto convenuto, e le corna sono un gesto convenuto particolarmente iconico, cambi di significato, ce ne vuole. Occorre di solito un ampio periodo di interregno, ovvero l'obsolescenza o lo spostamento del significante su tutt'altro significato. La cronaca di questi giorni mi fa capire che il gesto delle corna è finalmente recuperabile al comune patrimonio della comunicazione. E non perché del delitto del cacciavite nessuno si ricorda più, ma proprio invece in grazia di quell'infausto incidente che ne ha favorito una sorta di congelamento semantico. Siamo nel napoletano e l'ambientazione non è affatto trascurabile. Un tizio viene atteso da due malfattori e costretto con la forza a salire nella loro automobile. Prima si sono fatti accompagnare qua e là facendogli pagare il conto, poi hanno, hanno mirato ad un'estorsione più sostanziosa. Prigioniero e soverchiato fisicamente, il poverino ci lasciava i propri quattrini e temeva il peggio. Trascinato a destra e a sinistra, chiuso nell'abitacolo di un'auto guidata da due lestofanti. Se non che, nell'ennesimo trasferimento, incrociano una gazzella dei carabinieri e il nostro malcapitato ha un'idea brillante. Fa le corna ai carabinieri. L'avesse fatta 30 o 40 anni fa non sarebbe accaduto alcunché. I carabinieri non potevano certo permettersi di lavare il proprio onore in continuazione. L'ha fatto oggi, quando il segno è ormai un tabù sociale. E perfino due carabinieri si sono insospettiti. Quel gesto non poteva designare il vecchio significato di un tempo, ma doveva designarne uno nuovo. E dal momento che i destinatari del gesto erano carabinieri, era facile immaginare di quale nuovo significato si trattasse. Ai carabinieri ci si rivolge per chiedere aiuto, aiuto, l'hanno salvato. Si fosse rivolto, che so, a due semiologi, del poveretto ne avrebbero già fatto salsicce.